Morte? Violenza naturale? Naturale. Naturale, sì, naturale. Perché tu no? Mi sa che io mi prenderò un suicidio. Un suicidio? Sì, prenderò un bel suicidio. Beh, posso decidere il giorno, l'ora, anche il modo. Sei sicuro? Sì. A mio parere, la morte naturale scorre meglio. Dici? Non voglio farti cambiare idea. Contento tu, contenti tutti. Ci porti una morte naturale o un suicidio? Aspetta. Prendo uno naturale anch'io. Ah, sì. Due naturali, grazie. Ordiniamo un matrimonio? Perché non tanto per assaggiare? Gradisci anche dei figli come contorno? No, sei a stecchetto, paura di ingrassare. Ma non è quello, è che per me sono pesanti. Io invece uno prenderò. Non voglio rimanere senza eredi. Ma cosa vuoi lasciare il ricordino, calma? Friedrich, veder nascere e poi crescere un bambino deve essere una soddisfazione e una volta raggiunta la vecchiaia potrà anche essere di sostegno. Ma potrebbe. Comunque, contento tu. Contenti tutti. Ci prendiamo qualche avventuretta così da spizzicare mentre aspettiamo il matrimonio. Ma certo, le avventurette sono buone, mi piacciono le avventurette. Ma io pensavo di prenderlo anche durante il matrimonio, così spezziamo un po' il sapore. Già, anche se però dipende in quale ambiente uno gli capita di vivere. Perché? Ho sentito dire che in alcuni paesi le donne sono feroci. Ma chi te l'ha detto? Ma sono voci che girano nella tua testa, Carlo, nella tua testa. Dici che non è vero? Ma no che non è vero. Sei sicuro? Ma sì. Sicuro? Sì. Allora meglio, ci possiamo prendere un bel matrimonio di interesse con delle avventurette di contorno. Sì, un matrimonio di interesse, sì. Per me in salsa breve. Bravo, anche per me. Non lo leggo sul mio menu. Vabbè, sarà scritto piccolo, tanto poi lo ordiniamo, dai. Pazienza. Dobbiamo scegliere la professione. Quella con calma. Nel caso avessimo ancora fame. E con calma, ti assicuro, poi non la mangiamo più. Vabbè, pazienza. Vorrà dire che resteremo senza una professione. E le proteine dove le metti? Guarda che quelle sono importanti. Ma perché nella professione ci sono le proteine? Non delle migliori, però ci sono. Un'alternativa? Un'alternativa potrebbe essere una bella eredità. Ma non è pericoloso dal punto di vista legale uccidere qualcuno? Muoiono da soli. Allora tanto vale farli morire prima. Sì, però a volte gli ultimi anni sono i migliori. Un po' come con il vino. Chi te l'ha detto? Ma sono voci che girano, ti sento. E allora, in alternativa all'eredità, potremmo ordinare delle scorrettezze. Lasciami finire, ingrassano un po', però contengono sia ferro che proteine. Sì, sì. Senti il profumo? Questo posto è famoso perché fanno delle buone rapine e dei discreti furtarelli. Aspetta. Furtarelli della truffa, buonissimi! E ci mettiamo anche dei ricatti per iniziare? Ottimi! Anche se poi le scorrettezze, vedi che lo capiscono anche loro, draghi! Comportano delle ritorsioni. Ho capito, ma se sei sensibile allora... Vabbè, un po' anch'io, sai? Non vorrei che ci facessero male. E allora non ci rimane che la professione. Magari due. Bravo, facciamo così. Allora, ne prendiamo uno e ce la facciamo dividere a metà con due piatti. Sì. Però quale? Le lune. Cosa c'entra? Il leone è un animale, non è una professione. Safari, ma no, il leone, il lenone, come lo chiami tu, il magnaccia, il papà. Il papone, sì, il papone, mi piace, bravo, sì, ci lavora soltanto la sera, poche ore. Di tutti i mestieri è il più nobile, Friedrich, nessun guadagno, solo proventi. Sul prestigio non starei tanto a insistere, però sicuramente è un piatto molto gustoso. E ci mettiamo anche delle prostitute come contorno? A morte sua, sì. Sì. Guarda che anche l'avvocato con le praticanti, però non è da scattare. Cosa squallida che hai detto? Perché? Intraprendere una professione per andare con delle sprovvedute praticanti. Ma cioè, me lo vieni a dire tu che fai la questione morale, tu che vuoi fare il. Come si chiama? Il lenone. Il magnaccia. Il lenone, il goncio della sua professione, non ha secondi fini, ricordatelo. Ma scuola, sono mille lavori interessanti comunque, guarda, qua c'è il. Per esempio, il raccattapalle. Raccatta le palle. Sì, però lo vuoi fare te? È un lavoro che ti può interessare. Perché se no c'è anche il capo scout. Il capo scout, i lupetti, le cose. Le lupette, tutte le... No, invece Ecco, questo secondo me interessa. Il collaudatore di preservativi. Ti piace? Ti interessa? Carla, ti interessa o non ti interessa? Vabbè, abbiamo deciso le noni? Che le noni sì. Gradisci un riconoscimento importante? Un onore di Stato, una medaglia al valore? Un medaglione? Mm. No, no. Ma perché tu lo prendi? No, no. Ti se lo prendi lo prendo anch'io? No, non lo prendo. Te lo direi. Un'azione nobile. Salvare la vita a qualcuno. Per carità, la gratitudine è indigesta. Come non detto. Piuttosto un premio mi piacerebbe, sì, alla fine come dessert. No, no, il premio va preso all'inizio come antipasto. Ma dici? E le vitamine meglio assumerle prima. Beh, ma iniziamo dal piatto migliore, poi? Ma scusa, poi io e te abbiamo scelto una morte naturale, no? Sì. E allora con una morte naturale ci sta bene una bella pensione alla fine, no? Anche perché invecchiare un premio potrebbe agitare troppi sentimenti, il metabolismo ne risentirebbe, le coronarie... Ma la pensione con i lenoni ci sta bene? No. No, mi sa che hai ragione tu. E allora niente, ci prendiamo un premio alla fine. Però non abbiamo fame, giusto? Io impressionante, capo, impressionante. Ora perché non ci prendiamo delle storielle mentre aspettiamo tutto il resto? O forse vuoi dire delle storielle adolescenziali? Adolescenziali, sì. Con vita le compagne di classe. Sì, sì, sì, sì, le cugine di secondo grado, tanto poi ce le scambiamo. Bravo, come con le figurine, tu dire questo e tu quella. Sono una bella fatta tu, no? Un insalatonista, la cabanaia, la professoressa di latino. La nave scuola. Sì, l'infermiera, è l'infermiera. Poi la classe, poi la classe, la capote di cazzo. Basta! Basta! Se tu prendi tutto, che scelta fai? Ma sono storielle adolescenziali. Ho capito, ma se prendi tutto, poi ti arriva qualsiasi cosa. E quando ti arriva la peppata di cozze, poi te la prendi tu. Io non la tocco. Andiamo con ordine. Abbiamo detto, adolescenza, beh, prima c'è l'infanzia. Come la prendiamo? Dolce? Infanzia, dolce, ingrasso e rende flacci. Agrodolce? Agrodolce, perfetto. Ricca in ogni caso, eh? Abbiamo ordinato troppe cose. Ce la facciamo fare meglio, eh? Meglio va bene. Dai, Carl, fidati! Noi avremo un'infanzia agrodolce in una famiglia di classe media, né ricca né povera, che fa troppo sciapo. Fidati che la posizione è migliore. Eh sì, eh. Bravo, Carl. Così che ti voglio. Allora, l'università ci facciamo consigliare. Sì, tanto avranno l'università del giorno. Ma sì, ma poi... Ma sai che poi non hai che detto che bisogna farla? Perché secondo me l'università potrebbe essere un danno. Cioè, forse potrebbe essere una trappola. Una trappola per infracidire l'istinto. L'istinto della ragione. Beh, quello è un bene che si infracidisca un poco, mica vorrei soffrire. Ma perché tu l'intelligenza come la vuoi? Poca, giusto per capire le cose essenziali. Genius, per capire le cose essenziali a volte serve molta intelligenza. Io in ogni caso eviterei. No, io non mi sopravvo. Io prenderò una mente affilata in salsa di anima corrotta. Che vuoi corrotto o corretta è la stessa cosa. Amico mio, soffrirai le pene dell'inferno. Perché? Io per me invece prenderò una bella coscienza stabile in sala moia. Sì, qualche cosa di serenamente rigoroso. Una di quelle intelligenze che se per caso non infuochi gli occhiali da vista non se ne accorge nessuno. Ci vedrò benissimo. Non ne sarei così sicuro, sai? Aspetta. Anzi. Oltre alla gravissima miopia che ti coglierà all'età di 2 anni. Sì. Hai in mente qualcosa per le malattie, che so, uno schizzo che ti vuoi togliere, una curiosità. Vabbè, oltre a quelle esantematiche, a quelle non ci scappi, Carla. Morbillo, varicella, orecchioni, subito! Per il resto io le manderei a caso. A caso? Sì. Ma sulle malattie? Sì. Ma le mandiamo a caso, ma chi se ne frega? Perché sei pazzo! Soltanto un pazzo come te può non decidere la forma del proprio dolore. Ma se si deve soffrire, tanto vale non conoscerne la causa. Ma io di quelle mentali non voglio neanche sentire parlare. Io voglio gestire la mia follia senza che diventi una malattia vera e propria. Le fisiche mi fanno ancora più paura, va bene? Leggi, sindrome dell'eucocita pigro. Ma simpatico! Morbo di Mandelstam. Ma va? Templerosi multipla. Ma la fanno ancora? Ma fanno ancora la malaria, la difterite, la salmonella fumicata. Il morbo di Templestone, prendi il morbo di Templestone, te lo suggerisco io, guarda che è buonissimo. No, ma fidati, no. Ne prenderò una mentale. Questa. Sindrome bipolare. Con un'intelligenza media ci casca a fagiolo. Hai sciolto la riserva? Ma sì, sì, ho deciso da un sacco di tempo. Io prenderò un tumore. Un tumore? Ma sì, è la specialità della casa. Ma sei sicuro? Ma sì, è la malattia più diffusa, più alla moda, più trendy. E soprattutto, sento dire che stanno per trovare la cura. Buonanotte, io non ci credo a quelle vicerie, mi tengo stretta la mia bella sindrome bipolare. Come contento tu? Contenti tutti. Poi? Fede politica. No, fede politica è meglio stare alla larga. Secondo me è meglio improvvisare sul momento. Su questo hai ragione. Tanto pare che dove andremo a finire tutto sia piuttosto confuso. Confuso, eh? La confusione mi piace. Contento tu. Contenti tutti. Capitolo importante, affettività. Allora, che cosa prendiamo? Colpi di fulmine trifolati che li ho visti passare non erano male. Insomma. Passioni durature oppure sovraeccitazioni varie? Ma con tutto quello che abbiamo preso io giusto qualche sovraeccitazione. Così tanto per tenermi un po' su. E se ci prendessimo delle emozioni passeggere con fughe porcine? Con fughe porcine? Beh, le fughe porcine stagione, sì, stagione, però no. Giusto qualche sovraeccitazione, lascio almeno tracce. Io invece un'emozioncina mi sa che me la prendo. Magari me la faccio mettere in un piatto a parte e così la mangio quando la vuoi. Bravo, prenditi una bella emozioncina. Ma perché fare ancora le passioni durature che tanto poi non mi prende più nessuno? Non lo so. Però mi piacerebbe ordinare un rischio scampato. Un rischio scampato? Sì, uno scampato pericolo. Secondo me tempra. Se poi tanto noi non rischiamo niente, in effetti. Poi siamo anche sbizzarrici. C'è proprio una cosa, capito? Che... un attentato. Sì, una cosa... non è male, però... un incidente di macchina. No, quello è banale, scusa. Una cosa proprio che vedi la morte in faccia, a un certo punto, e poi invece ti salvi in qualche... una cosa che è una roba... un atterraggio d'emergenza. E noi due salvi. Rientriamo nei ranghi. Sì, rientriamo nei ranghi. Vai, Carlo. Abbiamo fatto fede politica, abbiamo fatto affettività. Sì. Religione. No, che si fa la religione? Ma c'è scritto anche qui che si fa sempre tempo ad ordinarla. E tra i digestivi? No. Io ce l'ho tra i dolci. Ah, sì? Pasticcio cristiano, torta luterana e ho anche il muro di pan di Spagna con lacrime di cioccolato. Ma davvero? Scusa, io qua ho vin santo del Sacro Graal e grappa di Zen. Deve essere la roba. Sai che c'è? Io non prendo niente. Tanto ormai siamo pronti, ma siamo arrivati ai digestivi. Ma già siamo pronti. E quando arriva la cameriera? La cameriera. Ah, vi posso dire la verità. Io non vedo l'ora di nascere. Io non ci sto più dentro. Anch'io. Cameriera! Mi siamo dimenticati la cosa più importante, però. Cosa? Il parto. Parto. Cesario? Sì, con la morte naturale ci sta bene, giusto? Claro, morte naturale, nascita artificiale, ma chi ci ferma più a noi? Cameriera! Dove chiami tu? La chiamiamo io. Chiamami tu. Ma chiamala te. Chiamala tu. Hai chiamato così bene. Vai. Cameriera! Sento che sta per arrivare. Cameriera! Guarda, Friedrich, tanto prima o poi arriverà. E lo spero bene. Ma guarda te. Ma guarda te. Fanno anche i nababbi con la panna. E i figli di papà ricoperti di bambagia. Non pensavo fosse stagione per i figli di papà. Allora andremo sempre stagione. Sì? Sì. Non li vedo nel mio menù, però. Vabbè, è entrato mio volevi, no? Ma in casa, però, non li avevo scritti. Ecco, Salve. A servirvi. Ecco, lei per prima cosa volevamo... nascere? Beh, certo, pensavamo ci fosse bisogno di ordinarlo. Certo, non tutti lo vogliono. Ma dalla vostra aria si vede che avete appetito. Beh, sì, ne abbiamo. Bene, mi fa piacere. Ecco, e poi volevo... Quindi riporto anche dei primi passi come antipasto. Beh, sì, certo. Quindi ci sono anche dei piatti obbligatori. In che senso, scusi? Io e mio amico pensavamo di dover scegliere solamente quello che si poteva scegliere e non le cose necessarie. Che la necessità, si sa, non si sceglie. Ma qui non vi è nulla di necessario. Oppure tutto. Eppure tutto? No, ho detto oppure tutto. Oppure, quindi dobbiamo scegliere ogni cosa. Più o meno, come vedete, il tavolo, le sedie, la tovaglia, i piatti, i tovaglioni, non li avete scelti. Già, sì. La morte, come la volete? Naturale. Qui ci sono persone. persone che la prendono violenta. Certamente. Ma come mai? Ma perché credono che la morte violenta sia il culmine di una vita esaltante, quando il più delle volte si viene uccisi da una semplice azione casuale, spesso da uno stupido incidente domestico, nulla di più passivo. Perché la morte naturale invece è attiva. No, nel senso in che... In ogni caso non è certo la morte in sé che voi avete ordinato, quanto piuttosto direi il pensiero della vostra morte, cioè il fatto di vivere pensando costantemente che la vostra morte sarà naturale o debba essere naturale. Già. Sì, ma scusi, in questo caso è come se non avessimo scelto niente. Non è così. Ad ogni modo, mica vorrete pretendere di morire con comodo. Esistono anche gli altri. E gli altri potrebbero, non so, avere piacere ad uccidervi. Ad uccidervi con crudeltà, magari. Che begli esempi. Ma non, caro, non ti preoccupare, non è che non ci vorrà male nessuno. Moriremo nel sonno. A te devono addormentarvi subito, allora. Comunque volevamo un matrimonio, di primo. Neanche delle avventurette. Leggere, mi raccomando. Le avventurette ve le porto come contorno? Senz'altro. Sì, sì, sì. Il matrimonio come lo volete? Molto speziato, all'indiana, all'americana, alla romana, borghese, bigotto, misto? Per me in salsa breve. Non sia troppo stringente, indigesto. Caro, ma tanto poi se non lo vuoi più lo puoi sempre lasciare. Sì, ecco, diciamo che dipenderà molto dal suo stomaco, anche dalle sue movenze. E dalla fortuna. Già. Ma non si potrebbe scegliere la persona con la quale perfezionarlo? Codesto benedetto matrimonio? E no! Aia. Non facciamo mica predestinazioni qui! Ad ogni modo non si preoccupi, perché quando accadrà avrà comunque la sensazione di essere stato predestinato. Ecco. Anche perché voi di questa conversazione non ricorderete nulla. Vabbè, certo, sarebbe oltremodo spaventevole. Proseguiamo. Proseguiamo, sì. Poi la famiglia di origine, come la volete? Che significa, scusi? In che contesto volete nascere? Tra genitori sposati, divorziati, in famiglia di fatto, a casaccio? Guardi, per me prenderò una bella famigliona solida con un digestivo a parte. Ma se siamo già in gestazione, che senso ha scegliere? Può influire. Comunque io non voglio scegliere, per me è totalmente indifferente purché sia di condizione economica agiata. Bravo! Allora ci porti due belle famiglione medie. Medie? Sì, e che i genitori non sono totalmente ignoranti. Questo è un po' difficile. No, comunque faremo il possibile. Qualche preferenza sugli amanti dei vostri genitori? Come si va sul torbido, però. Scusate, non avete ordinato delle avventurette? Eh? E magari anche i vostri genitori a suo tempo le avevano ordinate. E a te venne, e noi come facciamo a saperlo? Scusa. Ma certo, ma poi sono grandi e grossi, decidessero loro. Va bene, poi però se vi ritroverete con una matrigna cattiva non sarà colpa mia. Ma perché deve essere cattiva, scusa? Ma poi, caro... Ma poi sarà anche della vostra stessa età? Altro? Sì, e poi volevamo una professione, però ce ne porta una divisa a metà con due piatti. Una società? Sì, ecco, bravo, una società. Con cosa? Le nomi. Le nomi? Sì. Non li facciamo. Ma come non li fate? Mi dispiace, non li facciamo più. Ma non è che anche qui le donne hanno preso il sopravvento? Guardi, non è adatto a fare queste domande, qui potete solo ordinare. E allora ordiniamo, dai, caro, ordiniamo. Allora, vogliamo una società di consulenza. Consulenza con cosa? Commerciale. Ma no, per carità. La prendiamo legale? Che tristezza, caro. Qualche cosa dobbiamo scegliere, medica. Medica? Sì, il dottore, bravo, si spogli tutti i panni. Vieni. Devi tenere sempre il telefono acceso. Ti possono chiamare anche di notte, ma vorrei rischiare di lavorare troppo. Ci facciamo consigliare? Sì. Lei quale ci consiglierebbe? Giornalista. E giornalista non ci avevamo pensato. Perché proprio giornalista? Perché a parte pochi spericolati cronisti, è il mestiere più comodo che ci sia oggigiorno. Ed è quello che più si avvicina al lenone per certi versi. Su questa ragione! Come darle torto! L'inviata speciale! Boom! Giornalista! Ne prendete due o dividete a metà? No, a questo punto ci porti due. No, ne porta sempre una divisa a due, perché poi ti spiego. Va bene, poi? E poi cosa dobbiamo prendere ancora dopo? Dopo i signori qui presenti ordineranno una bella pensione come dessert, perché il giornalista ha diritto alla pensione. E se è un diritto, è un diritto. Le pensioni non le facciamo più. Ma davvero non lo sapevate? Ma come non le fate più? No, ci bastavano troppo. Vabbè, scusate, ma con tutto il rispetto, ma chissà se ci arrivate. E questo se lo poteva anche risparmiare, signorina. Gli avevano detto che le cameriere non avrebbero fatto commenti. Avrebbero preso gli ordini e sarebbero filatelica. No, il suo linguaggio è improprio. Casomai avrebbero ritirato le ordinazioni e si sarebbero recate a riferirle. C'è una bella differenza tra un ordine e un'ordinazione, sa? In effetti un'ordinazione è contenuta nella parola zia. Stai buono. Dunque lei ha un ruolo attivo. E quale sarebbe la sua missione? Ma lei esagera. Io non ho alcuna missione. Gentilmente però può delucidarci su alcuni punti del menù, giusto? Questo sì, ma non metteteci troppo a formulare le vostre domande perché ho molti tavoli da servire io. Strano. Con la crisi demografica che c'è in giro si tratta forse di reincarnazione! Pensate a voi. Pensiamo a noi, dunque, a questo punto noi volevamo prendere assolutamente delle storielle. Le avete già ordinate? No, abbiamo ordinato delle avventure. È la stessa cosa. Non mi permetto di dissentire. Crescono nello stesso ambiente, ma sono diverse. Le avventurette vanno mangiate fresche, appena colte. Mentre invece le storielle possono essere cotte, ricotte, trite, ritrite, tirate fuori, messe in freezer, magari un po' nel forno con un po' di besciamella che fanno una bella crosticina. Guarda che la storiella è il gambo e l'avventuretta è la foglia del medesimo ortaggio. Sta poi a voi mangiar prima, mangiar dopo e via dicendo. Qui non si pianifica nulla, qui si portano solo i piatti. E allora perché ci hai chiesto solo volevamo insieme al matrimonio? Quella domanda aveva un senso. Non vi dirò quale, ma è intuitivo. Quanti misteri! Comunque ce ne porti molte, anzi moltissime. Condite alle compagne di scuola, alle cugine di primo secondo grado e poi... Alle zie? Come le zie? Io le voglio una condita con la zia. Ma che zia? Perché? Perché? Te scusi? No, nulla. Tu sei presente di come è fatta tua zia, visto che sarà già viva e vegeta da un pezzo? Cambio la mia ordinazione! No, Carlo. Ormai è scritto. E quello che è scritto, io non ce la faccio più! Andiamo bene. Ti avevo detto di non prenderla. Ma noi sarà un'esperienza formativa. Ma minimo è chiamata. Lo vedremo. Ne prendo una con mia sorella. Ma cosa c'è? Menù incestuoso! No, tu non hai sorelle. E neppure cugine. Sì? Oh sì, quante ne vuoi! Per favore, possiamo andare avanti? Quanto le compagne di scuola? Cosa faranno le mie compagne di scuola? Beh, posso solo dirti che avrai... tre. Tre compagne di scuola per tutto l'arco della scuola. Solo tre? E sono pure troppe! Insomma, basta, ma cos'è questo sarcasmo? È il sarcasmo della rivelazione. È così che si svela ogni volta in futuro. Tutto questo è assurdo. Tanto voi di questa conversazione non ricorderete nulla. Sì, ma ora ce la ricordiamo benissimo. Va bene, va bene. Dicevamo delle storielle. Allora, la commessa, la macchina, la c'è una via. Sì, tutta la via, certo. Però ci scambiamo, non c'è tutto. La vicina di casa. La vicina di casa, tipo una finestra sul brano. Che la spinta, non sei adolescente, la vedi che si cambia per anni, finché... Poi tipo la personal trainer. Personal trainer. Può mettere anche la moglie di un amico? Cosa? L'università, dicevamo, no? L'università. Quale ci consiglia? Nessuna. Come sarebbe a dire nessuna? Sarebbe a dire che non c'è nessuna università che io consigli. Sì, ma prendi almeno l'università del giorno, no? Economia e commercio in tutte le salse. Oh. Facciamo anche teologia politica, filosofia e post-industriale. Sì, va bene. Teologia politica aiuta a essere furbi. È l'università dell'astuzia, del ben celato secondo fine. Filosofia post-industriale invece aiuta ad inserirsi con maggiore efficacia nel funzionamento del mondo. È l'università del progresso, del rintracciamento delle risorse, del modo di far avanzare il sistema. Ma sai che non avrei mai immaginato? Te le raccomando. Ma magari possono essere utili. Come no? Economia e commercio come la fate? Aziendale, finanziaria, commerciale, interbancaria. E mercati tecnologici? Certamente. Allora per me è quella. E anche un master in evasione fiscale. Ma però, vedi, con questa faccia avrei detto lei. Filologia. Non interferisca. Ci mancherebbe. E per lei? Io sono un po' confuso. La posso aiutare? No, grazie, vorrei riflettere da solo. Ha avuto tutta l'eternità per riflettere, specialmente in questi ultimi mesi di gestazione. Sì, ma io non lo sapevo, cioè non avevo capito bene. Che... Ma che cosa c'è da capire? Ma non usi questo tono. Ah, con tutte le possibilità che avete voi oggigiorno. Con tutte le possibilità che avete voi oggigiorno. Voi volete farmi cadere la colpa su di voi, vero? Un giorno direte, potevate, ma potevate cosa? Ma prendetevi le vostre responsabilità, ma scegliete quello che desiderate davvero, se avete il coraggio. Ma per favore, se aveste distribuito la guida seria e dettagliata, invece di costringerci a procurarci informazioni, ad ascoltare voci di corridoio per poi arrivare qui e trovarci davanti questo squallido menù. Squallido menù? Sì. Ma lei lo sa di che cosa sta parlando? Certo che lo so, e so anche che lei è venuta qui per depistarci. Io per depistarvi? Esatto. È ridicolo. È ridicolo? Vuole che non abbia notato la sua strana imperizia nelle ordinazioni? Ma come si può dividere in due la professione di giornalista? Come può esistere una società di giornalisti? Che senso ha? Ha senso. Ah, sì? Sicuramente ha un senso. Ma dica, quale? Potremmo sempre dirigere un giornale insieme. Ecco. A Carla, anche in quel caso saremo sempre tutti e due giornalisti, non crede? Sì, ma voi avete diviso a metà la professione, non il titolo. Ah, tutto un po' intelligente, faccio uno scherzetto con le parole, credo di avermi fregato. Guardi che io ho studiato, io mi sono preparato. Eccolo qua. Io ho fatto le mie ricerche, eccolo qua. Giornalista, colui il quale, in modo egoista, tiene per sé le notizie e sparge nebbia di parole sugli altri. Ora mi dica, come si può dividere il sapere? Com'è possibile spartirsi i segreti? Com'è possibile associarsi? Vea qua, faccia leggere. Senti, Carlo. Giornalista, colui che reperisce, anche a costo della propria vita, preziose ed irripetibili informazioni. È diverso. Da sussurrare al resto dell'umanità affinché essa edotta migliori. Mi sta prendendo in giro? Niente affatto, così è scritto. È lei che deforma la lettura col suo sguardo. Io non leggo niente. Ma che sguardo penetrante. Non mi tocchi. Che modi, parla così anche con la sua ostetrica. Intanto lei non è la mia ostetrica. Grazie a Dio. E poi cos'è questa storia che non fate le pensioni? Ma cos'è questa storia che non fate le pensioni? È così. Non ci credo affatto. Ma scusi, ma che le importa? Ancora non è nato e già si preoccupa della vecchiaia. Sul rispetto della vecchiaia si fonda la civiltà intera. Ah, ma perché voi due credete di entrare in una civiltà? Ma che carini! Senta, mi chiami il direttore, per favore. Vorrà dire il capo cameriere? Lei continua a usare un'ironia spicciola nei confronti di persone che stanno scegliendo la guida futura. Beh, su, si calma. Su che? Lei sta scherzando sulla vita degli altri? E su che cos'altro si potrebbe mai scherzare? Per favore, intervieni tu perché mi sta veramente perdendo la pazienza. La misura è colma! Ah, beh. Vabbè, Carlo, senta, lei deve avere rispetto per le persone che vengono qui ad ordinare, perché se no qua ci fa impazzire tutti già prima di nascere. Invece quando uno nasce... Su, l'ho detto di calmarsi. Forse lei non è fatto per nascere. Non è fatto per vivere. Lo sa questo? Magari semplicemente letto troppo in questa breve preliminare eternità. Non è così? Non cerchi di ammansirmi, mi chiami il capocannoniere, il direttore, mi chiami direttore. Come vuole. Direttore. Ma smetti di fare la scema, per favore, chiami il direttore. Direttore? Va bene, lo chiamo io, direttore. Direttore! Mi avete chiamato? Sì, ci sono questi due signori. Qual è il problema, signori? È questo il direttore. Non lo so. Lei sarebbe il direttore? No. Io sono il direttore. Dice di sì. Andiamo bene. Il signore qui presente ha osato polemizzare sul menù. Io? Sono stato io! E ha cercato di offendermi. Ma questo non è vero. Ma è così. A chi dovrei credere, secondo lei? Beh, ovvio. A me. Il cliente ha sempre ragione, no? Non credo proprio. Forse non è il caso di farlo nascere, questo qui. Ah, sì? Come? Ma Sì, un bel aborto, fatto bene. Lei rimane qui con noi. Ah, certo, beh, ma forse non ci siamo capiti, perché invece io voglio nascere. È già così polemico. È già così infelice. Ma che c'entra? Io ho i motivi per esserlo. Ah, tutti possono trovare degli ottimi motivi. Però si dà il caso che questo mese lei sia stato l'unico ad invocare la presenza del direttore. Ad averlo fatto scomodare. Per quello nessun disturbo, mia cara. Nessun disturbo. Ed lei mi preoccupa. E quando uno si preoccupa, fa poi fatica ad occuparsi con leggerezza delle cose, come farla nascere, per esempio. Ma Dio, ormai siamo addirittura d'arrivo, sono qui con le mie gambe sotto al tavolo e il mio amico Carto vicino, il menù qua davanti, sto per ordinare, mi sembra che non ci sia nessun problema. Tutto può essere revocato, caro mio. Ah, ma forse lei è uno di quelli che preferisce nascere, vedere la luce, godersi l'attimo e poi morire. Ma che cosa crudele. Ma succede. Se succede. Io credo che lei potrebbe mai permettere una cosa di questo genere. Noi permettiamo tutto. E allora il suo ruolo è inutile. Lei è un po' troppo polemico. Mi dispiace. Lei non cadrà sulla terra. No, aspetti, no, forse mi è scappata una cosa che non volevo. Non volevo dire quello. Se lei mi desse un'altra possibilità, io le posso promettere che io potrei riuscire. Va bene, l'ascolterò, mi dica. Ecco, no, io volevo semplicemente contestare il tono sarcastico con cui la cameriera commentava le nostre scelte, che sono scelte difficili e delicate, come lei pensa. Capirai. Scelte che possono determinare il corso di una vita intera. Vada avanti. Ecco, io non credo che la signorina sia in grado di prendere le ordinazioni. Sai che ci vuole. In particolare ci ha detto che le noni non le fate più. Purtroppo le nonne è diventata una professione trasversale a tutte le altre. Ah, sì. Una volta il lenone era un lavoro a sé, ma ora è diventata una pratica che si trova frammischiata, soprattutto in quelle professioni che in qualche modo ve ne deriva. Il giornalista, ad esempio. Certamente. Sarebbe, ma la professione che gli si avvicina di più tra quelle classiche è... Il professore universitario. Universitario. E non ce l'aveva detto? Ce l'aveva detto. Se per questo c'è anche il produttore, il regista, il politico. Ma quelli che sono ovvi. Sì, ma in particolare proprio per chi si appresta a nascere in questo paese, il professore universitario è la più stretta derivazione dal denone. E questo grazie alla brillante interpretazione che del ruolo hanno dato alcuni insigni colleghi negli anni. Molto interessante, direttore. Cambio la mia ordinazione. Anch'io. Non si può cambiare quello che è scritto. Allora lo vede che ci ha ingannato? Avete avuto un assaggio di eternità per preparare le vostre scelte. C'è dell'altro che desideravate contestare? Pensioni. Ah, sì. Ci ha detto che le pensioni non le fate più. Esatto. No. Mi sembrava strano. Esatto, lo dico solo io. È esatto. Ah sì? Sì, perché vede, il vostro futuro sarà sempre incerto, precario, ingarantito, e tutto ballerà fino all'ultimo. Che piacere. Piacere vostro. Piacere vostro. Vorremmo gentilmente sapere, direttore, inoltre, se è plausibile dividere la professione di giornalista, visto che è questo quello che abbiamo dovuto ordinare. Non sono io che posso dire. Questa non è una risposta. Se lo è. No, scusate, devo dire che equivale a dire che non si può fare. Vi prego di andare avanti. Mi sembrerebbe un punto importante. Non credo proprio. Si tratta del nostro lavoro. Giornalista, ma non è un lavoro. E che cos'è, un passatempo? Io intenderò riportare le notizie fino in fondo, a costo della mia stessa... Su, non si preoccupi, abbiamo capito. A costo della mia stessa vita. Bravo, caro, fagli vedere di che pasta siamo fatti. Ma di che cosa state parlando? Non avete nemmeno ordinato una fede politica, per voi deve essere un po' tutto uguale. No, anzi, proprio il contrario, ci siamo proprio informati sui comizi, tribune elettorali, assemblee pubbliche. Oppure pensa che siamo dei conquisti dell'anima, avanti, lo dica. Io non dirò niente, non è il mio compito. E questa che cos'è se non un'illusione di libertà? Senta, dica un po' quello che vuole. Tanto la vita è sua. O meglio, sta per essere sua, perché ora come ora è un po' di tutti quanti. Dice? Dico. Io so che ansia. Mi sento già in colpa e neppure sono nato. C'è altro? Sì, sì. Poi c'è stata l'ondata di sarcasmo della signorina nei confronti delle scelte del mio amico Carla. Ancora non si chiama più Carla. Chi? Lei. Sua madre ha appena deciso di commutare il suo nome in... Gustav. Gustav. Che nome triste, Gustav. È sempre a dir male, ma la sua infelicità non ha limiti proprio. Come potrebbe essere felice un condannato a morte? No, per favore non dica queste cose, condannato a morte, una cosa che mi urta. Io se fossi in lei direi piuttosto condannato a nessuna vita. Grazie per la precisazione. Non c'è di che. Ma mi tolgo la curiosità. Che morte aveva scelto lei? Naturale. Come me del resto. Bene. Però ho visto che non avete ordinato le malattie. Vedi, a distrarsi. Ed ora che succederà? Ora niente. Soffrirete a caso, come la maggior parte degli uomini. Un dolore cieco. E tutto questo per la sua voglia di giocherellare. No, oh, beh. Dunque, mi sembra di capire che la mia cameriera si sia rivolta a lei con un tono scherzoso, ai limiti dell'ironia. Beh, sì. L'ha per caso offesa? Offesa non direi, direttore. Certo, mi ha svelato parti del futuro non troppo piacevoli. Ah. E cosa in particolare? Mi ha detto che non avrò né sorelle né cugine, che le mie compagne di scuola saranno solamente tre. Ma Gustav, se permette... Guardi che questo non lo può sapere nessuno. Ma come? Ma sì, la mia cameriera si è permessa di farle uno scherzo. Un piccolo scherzetto. Vero? È così. Non gli credere. Certo che non gli credo. Perché tanto io l'ho capito che voi qui sapete già tutto. Ma certo che sappiamo tutto, Gustav. Sappiamo anche di che morte le morirà. Io sento una morte naturale, io. Sì, naturale, artificiale. Quelli sono concetti che si muovono in continuazione, la cui demarcazione è oggetto di perpetua discussione. Sono in molti che la negano, perfino. Allora di che morte morirò? Non è bene sapersi. Ma torniamo a noi. La mia cameriera si è permessa un tono licenzioso. Sì. Ha fornito delle informazioni che forse era meglio lasciar segrete. A parte questo, l'ordinazione è valida. È il mio amico. E lui si farà un altro giro. Non lascerà. Mi appongo! La prego, mi conceda l'ascita. Mi conceda la possibilità della vita. Io sono pronto a rinunciare anche alla mia ordinazione. Io sono pronto a prendere anche il caso assoluto. Si chiama buio. Qualcuno sceglie di farlo, sì? Qualcuno l'ha chiesto qualcosa, sì? Questo fa parte del caso assoluto. Non nascere. Ma... Sì. A che mese è di gestazione? Sì. Il settimo. Il settimo? Ma si rende conto di una cosa terribile? Una sofferenza assurda. Per la madre. Ma avanti, la prego, glielo dica anche lei. Mi sembra forse una punizione un po' troppo severa, no? Abbiamo lasciato il caso per il caso. Sì, certo. Sono curiosa di sapere come sta la gara. Che se la possa fare? Non dovremmo mica tenercelo qui con noi. Senta, se proprio vuole un'altra possibilità di vita. E come? Ma se la prende. Grazie, direttore. Grazie, è stato molto gentile. Io sapevo che lei ci sarebbe. Ma fra un'insufficienza cardiaca. Questo è tutto. Grazie lo stesso. Almeno nascerai. Ah sì, hai ragione, Carla. Scusa, Gustav. È soltanto che sono un po' preoccupato per questa insufficienza cardiaca. Ma no! Significa solo che non avrai cuore. Che non? Che non saprai amare. Ma allora chi se ne frega? Pensavo fosse un difetto fisico io! Vai, adesso non ci pensiamo, siamo pronti! Sì, siamo all'ottavo mese, dobbiamo sbrigarci. Sì. Una di voi due non dirà Pietro, ma tu... Bibubà! Allora, Gustav, che università scegli? Teologia politica. Sì, teologia politica. Teologia politica, mi ero certo. Abbiamo vinto. L'infanzia? Allora, l'avevi presa agrodolce. Allora, prendo agrodolce, sì. Io ho preso. Ma quando arriveranno le prime pietanze? Subito. La casa vi offre anche una giornata fortunata. Una giornata fortunata, sì! Sempre che voi riusciate a riconoscere la fortuna. Eh già. Addio.